Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È sotto sequestro nel porto di San Giorgio di Nogaro la motonave Audace, naufragata ieri al largo di Grado con 85 persone a bordo. Dalle prime ispezioni pare che non vi siano squarci evidenti sullo scafo, il che escluderebbe l'urto con qualche oggetto galleggiante. La procura attende la relazione tecnica della Guardia Costiera su quanto accaduto. Vasto incendio a Mortegliano in un'azienda di carpenteria. Le fiamme sono partite dal tetto su cui è installato un impianto fotovoltaico. Una colonna di denso fumo è stata visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono già concluse. Ai vigili del fuoco in regione mancano 230 unità e garantire i soccorsi in estate sarà problematico, sostiene la CGIL, che sottolinea come il carico di lavoro aumenti per l'apertura delle stazioni stagionali e per l'aumento della frequenza dei voli a ronchi. 8 edifici dell'ATER di Trieste in via Boito saranno demoliti e ricostruiti con le tecniche di sostenibilità edilizia più innovative, grazie a fondi europei Horizon. La pioggia e le temperature fresche stanno rovinando l'annata alle api, che si ritrovano senza nettare e quindi senza miele. Gökhan İnler nel ruolo di responsabile dell'area tecnica e Gianluca Nani come direttore tecnico dell'Udinese Calcio. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioca. A San Giorgio di Nogaro questa mattina è arrivata trainata la motonave Audace, che ieri è naufragata al largo di Monfalcone mentre trasportava un'ottantina di passeggeri da Grado verso Trieste. Lo scafo è sotto sequestro. La procura di Gorizia, che ha già aperto un fascicolo d'inchiesta, è in attesa della relazione tecnica della Guardia Costiera. Dalle prime osservazioni parrebbe che non ci siano squarci nello scafo, una circostanza che esclude le ipotesi di urti subiti da oggetti esterni, quali per esempio grossi tronchi. Intanto ATP Gorizia, che gestisce il collegamento marittimo, sta predisponendo il ripristino della tratta, ma sentiamo i dettagli. Il condizionale è d'obbligo perché le indagini sono appena partite, ma la certezza sembrerebbe essere assoluta. Sullo scafo della motonave Audace di squarci non ce ne sono, non ci sono falle. Scattata al momento l'ipotesi di impatto con un corpo esterno, per esempio un tronco, per spiegare quanto accaduto ieri alle 11:24 al largo di Grado. Anche a occhio nudo si vede come l'unità navale, sotto sequestro in cantiere a San Giorgio di Nogaro, all'esterno non presenti problemi. La procura di Gorizia, in attesa di acquisire le relazioni della capitaneria di porto di Monfalcone, coadiuvata dagli uffici dipendenti di Grado e Porto Nogaro, che indagano come polizia giudiziaria, verrà verosimilmente aperto un fascicolo per naufragio colposo, al momento contro ignoti. Se non è entrata acqua da una falla, deve essere entrata allora da sopra. Il problema è che non è riuscita a defluire. Diverse testimonianze di turisti a bordo, già sentiti come persone informate sui fatti, indicherebbero la presenza di acqua a bordo già poco dopo la partenza, nel viaggio di ritorno verso Trieste. Onde non altissime, 1,70 m, ma se il maltempo può essere stato clemente nel viaggio di andata, col mare in poppa, così non è stato al ritorno, col mare in prua. Gli investigatori si concentreranno con tutta probabilità anche su tutte le attività propedeutiche al rilascio delle certificazioni di navigazione. Al momento tutti i certificati di sicurezza e i documenti tecnici su cui si basano questi ultimi sono in regola. La motonave poteva navigare entro 5 miglia dalla costa e così è stato. Verrà sentito anche il capitano della nave per capire se il mezzo avesse imbarcato acqua nei giorni precedenti o meno, alla luce del maltempo. La motonave operava il servizio trasporto passeggeri per APT Gorizia. I consulenti sono all'opera e l'azienda si è già attivata per la restituzione delle biciclette e dei servizi personali dei turisti a bordo. In questi giorni i collegamenti vengono garantiti da mezzi via gomma in attesa di studiare il da farsi. Prossimi aggiornamenti nelle successive edizioni. Gorizia, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, un vasto incendio è scoppiato stamattina a Mortegliano in via Boiati, all'azienda Serra Metal, attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche della carpenteria. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che si sospetta siano partite da un malfunzionamento dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto della struttura. La colonna di fumo è stata visibile a molti chilometri di distanza. Non si registrano feriti, anche se sul posto sono stati inviati in via precauzionale mezzi di soccorso. Sul posto anche alcuni equipaggi dei vigili del fuoco, del comando di Udine, dei distaccamenti di Cottroipo e Cividale e il supporto di un'autobotte giunta dal comando di Gorizia. ma i vigili del fuoco sono sotto organico in regione, mancano 230 figure, denuncia la CGIL, che teme sarà difficile garantire i servizi di soccorso estivi tra i fenomeni di maltempo sempre più estremi, i presidi marittimi e l'aumento dei voli a ronchi. La dotazione organica dei vigili del fuoco in regione, considerando l'attuale carenza, i pensionamenti in arrivo e le assunzioni con il contagocce, rischia di non garantire la copertura del territorio regionale e il soccorso tecnico urgente alla popolazione. A lanciare l'allarme il coordinatore regionale di comparto funzione pubblica CGIL Renato Chittaro, che ricorda come d'estate va coperta anche l'apertura delle sedi stagionali di Grado e Lignano, che si somma anche all'aumento dei voli all'aeroporto Trieste Airport. Ad aggravare il quadro in prospettiva anche ritardi nell'avvio a livello nazionale dei corsi di formazione per nuovi caposquadra. L'elevata età media del personale, tra gli 850 effettivi in servizio in regione, di 47 anni, la carenza di autisti, oggi al 55% della dotazione necessaria, l'avvicinarsi di un grande evento come Go 2025 che innalzerà i livelli di sicurezza da garantire sul territorio regionale. L'allarme di Chittaro fa ecco a quello lanciato da Mauro Giulianella, coordinatore nazionale funzione pubblica CGIL dei Vigili del Fuoco, all'indomani dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Questa mattina a Trieste, presso il comprensorio di Casa Et Ater di Via Boito, è stato presentato il progetto Super Shine, finanziato con i fondi Horizon Europe, che si pone come obiettivo il rinnovamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica in tre distretti pilota in Europa. Il complesso di Via Boito ne è appunto parte e vedrà un intervento di riqualificazione che prevede la demolizione e la ricostruzione di 8 edifici, ricorrendo a metodologie innovative già sperimentate con l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo, puntando su nuove soluzioni tecnologiche e residenziali all'insegna del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e allo stesso tempo della vivibilità degli spazi. Ne abbiamo parlato con Riccardo Novacco, presidente Ater Trieste. Sono 8 edifici che sostanzialmente avevano 120 alloggi di dimensioni minime, dove otterremo un numero inferiore perché verranno fatti più grandi, un'ottantina al massimo, ma con linee attuali delle esigenze familiari, dotati di tutti i comfort abitativi che tutti noi abbiamo bisogno oggi. E diciamo che anche la novità saranno i posti auto pertinenziali, che saranno posizionati al piano terra al posto che nell'interrato, evitando scavi. Punteremo su soluzioni tecnologiche, ovviamente all'insegna del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e nello stesso tempo della vivibilità degli spazi. 2025 sarà un anno dedicato sicuramente ad affinare questa progettualità partecipata e io conto che nel 2026 questo lavoro possa partire nella sua totalità. Parliamo di una trentina di alloggi su 8 edifici. Sottolineo il partenariato pubblico-privato, che è proprio il motivo di forza di questo progetto. L'investimento totale sicuramente è oltre i 15 milioni di euro. Il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, ha salutato positivamente che il silos venga chiuso. La chiusura dell'edificio, ha scritto il presule, è stata da tutti auspicata. Chi lo ha visto sa di un ambiente indegno, sporco, foriero di infezioni e malattie, un pericolo per i migranti e per l'intera città. Non è degno, ha scritto il presule, per chi per mesi vi stazionava in attesa di essere alloggiato in una struttura per richiedenti asilo, come previsto dalla legge. Non è degno per una città come Trieste. I trasferimenti in strutture di altre città e regioni sono sempre stati fatti, ma in modo insufficiente. Il vescovo ha dunque auspicato che il sistema di trasferimenti in strutture adeguate all'accoglienza per i richiedenti asilo funzioni, altrimenti, prosegue il prelato, questi giovani si accamperanno in altri angoli della città, e ha ricordato che i dormitori della Caritas sono già pieni. Nella sua lettera aperta, il vescovo Trevisi ha auspicato che la struttura di Camposacro sia aperta quanto prima e ha aggiunto che non spetta al vescovo dire se è più opportuno aprire Camposacro piuttosto che Via Gioia. All'ospedale di Udine è partita la seconda maratona di 24 ore di dono del sangue con 250 volontari già programmati fino alle 12 di domani. Il primo gruppo di donatori, con tanto di pettorine numerate, ha simulato una partenza come in una vera maratona. Obiettivo dell'iniziativa, ideata dal gruppo giovani dell'Associazione Friulana Donatori Sangue AFDS, non è solo il superamento del record dell'anno scorso a fronte di 250 120 donazioni, ma anche quello di rodare la macchina organizzativa sia dell'associazione sia del reparto ospedaliero del centro trasfusionale in caso di grandi emergenze che richiedano quantità eccezionali di sangue. La scuola di polizia di Trieste è tra le maggiori in Italia e forma più di 800 agenti all'anno. La prossima settimana, il 19 giugno, presteranno giuramento 407 allievi del 225esimo corso che entreranno in servizio in diverse sedi in assegnazione sull'intero territorio nazionale. Cominciano con la donata, l'alzabandiera e l'inno italiano le giornate alla scuola di polizia di Trieste, dove il 19 giugno 407 agenti in prova presteranno giuramento nella piazza d'armi a conclusione del 225esimo corso. La formazione dura 6 mesi, si comincia con la didattica a distanza per proseguire a Trieste approfondendo temi che vanno dall'area giuridica a quella tecnico-operativa e valoriale, poi i temi legati all'attualità, come ci spiega la direttrice Antonella Carnielutti. Quali ad esempio la vittimologia e quindi il contatto con le vittime del reato, il cybercrime che viene gestito ovviamente sempre da docenti qualificati del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica, oppure anche le baby gang e quindi il fenomeno della criminalità minorile, il contrasto alle sostanze stupefacenti e psicotrope, tematiche in materia di privacy, l'incontro fondamentale con il garante dei diritti dei detenuti e con il garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tra le 11 scuole di polizia presenti sul territorio nazionale che formano una media di oltre 400 agenti all'anno, quella di Trieste è tra le più grandi. Forma più di 800 agenti all'anno. La maggioranza dei frequentatori del corso che si sta concludendo proviene dalla vita militare. L'esperienza dell'agente in prova Gianluca Cavallaro, ad esempio, è legata alla Marina Militare. Mi piacerebbe molto andare alla questura di Firenze e stare lì a contatto col cittadino. Però il mio sogno è quello di andare a reparto volo in qualità di pilota di elicotteri. Dei 407 frequentatori del corso, 96 sono donne con una motivazione forte e pronte per le sfide del futuro. Paola Paiano. Io da sempre sognavo di entrare a far parte della Polizia di Stato. Amo il motto esserci sempre, presenti in funzione dei cittadini. È stato il mio grande sogno indossare questa divisa. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. È ora 12:42 il meteo, il cielo da nuvoloso coperto su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 18 gradi, mare mosso con temperatura di 19 gradi, Gorizia e Pordenone 20 gradi, Udine 19, Tolmezzo 14, Tarvisio 11, Forni di Sopra e Piancavallo 9, Sappada 8, sullo Zoncolano e sull'Ussari 4 gradi, a Lignano 20, a Grado 19,5, temperatura del mare in laguna 20 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: fino al primo pomeriggio c'è la prevalenza nuvoloso con residui, rovesci e temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio cielo poco nuvoloso, soffierà bara moderata sulla costa. Per domani tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Al mattino soffierà bara moderata sulla costa e sul carso, dal pomeriggio venti di brezza. La primavera e il giugno piovosi mettono in serie difficoltà le api e gli apicoltori. Le api non trovano nettare, non possono produrre il miele, tanto che di questo passo la produzione di miele rischia di essere ai minimi storici quest'anno. La situazione quest'anno è tragica, nel senso che l'anno scorso era stato difficile, quest'anno è praticamente impossibile. L'apicoltura è in ginocchio, piogge persistenti, mancanza di cibo per le api e raccolti prossimi allo zero, come testimonia Silvia Tortora, apicoltrice a Castelnuovo del Friuli. L'importazione delle api o tutti i mieli che si fanno a aprile, maggio e giugno, per cui noi abbiamo già perso 2,5 mesi buoni di produzione, le api sono alla fame, nessuno si aspettava un anno del genere. Persino nei giorni in cui riuscivano ad uscire, i fiori erano talmente bagnati che non riuscivano a importare niente, nemmeno per sopravvivere, per cui il surplus di miele non c'è stato per noi apicoltori. Le medie sono dagli 0 assoluto ai 3 kg al massimo per alveare, mentre la norma adesso con la caccia, il tarassaco, il ciliegio che noi abbiamo perso e anche il millefiori sarebbe dei 20 kg, se ci va proprio bene, bene 30. Gli apicoltori sono stati costretti ad alimentare di soccorso le api per salvare salvarle dalla morte per fame. Alimentare le api ad aprile e maggio è una cosa che ti spezza il cuore, perché sai benissimo che è un animale, che è l'animale più importante che esiste, è stato eletto l'animale più importante sul nostro pianeta. Senza di noi sarebbero morte, le nostre api senza gli apicoltori muoiono. Adesso che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo almeno di portare a casa gli ultimi mieli della produzione di quest'anno, che sono Tiglio castagno e castagno. La nostra unica speranza è il castagno e delle melate, se Dio vuole che le facciamo, perché qua dipende tutto dal cielo. L'apicoltura quest'anno è veramente in ginocchio. Non so se le persone si rendono conto di quanto grave sia tutto questo. Castelnuovo del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Unisce botanica, inclusione sociale e cooperazione transfrontaliera nel contesto del Giardino del Chiostro di Cividale, il progetto del Giardino Mediterraneo, iniziativa oggi in presentazione alle 15 che propone laboratori didattici e degustazioni. Ne abbiamo chiesto una presentazione a Lorenzo Favia, proprietario del Giardino del Chiostro. Il progetto del Giardino Mediterraneo è costituire una rete di giardini didattici mediterranei per tutti, per promuovere un turismo educativo valorizzando il patrimonio verde. Come è partita questa iniziativa? Questa iniziativa è partita dalla capitalizzazione di un vecchio Interreg del 2014. È uscito un bando chiaramente dell'Italia-Slovenia e abbiamo pensato di capitalizzare, l'abbiamo proposto di nuovo ai partner che avevano fatto quel progetto, è stata accettata la nostra idea e siamo andati avanti. A chi si rivolge il Giardino Mediterraneo? A tutti i target, dalle scuole, ai gruppi, alle famiglie e soprattutto anche alle persone fragili, con disabilità. In che modo voi riuscite a raggiungere un pubblico così ampio? Proponete laboratori didattici o altre iniziative? Abbiamo tantissimi laboratori didattici, noi in particolare come Giardino del Chiostro siamo una fattoria didattica e una fattoria sociale collegata a una rete di fattorie sociali. Tutti i nostri laboratori chiaramente hanno una valenza doppia, che è naturale, quindi nella natura, botanica, e storica, perché siamo all'interno di un ex monastero. Il Giardino Mediterraneo si aggiungerà agli altri 5 tipologie di giardini che abbiamo. L'ospedale di Cattinara è l'unico ospedale pubblico in Italia che esegue gli interventi chirurgici per curare l'infertilità maschile estrema. All'ospedale di Cattinara è stato eseguito a lunedì un intervento molto raro per risolvere l'infertilità maschile più estrema, quella in cui non compaiono proprio gli spermatozoi. Un intervento delicato e sono state 2 le equipe coinvolte. Ne parliamo con il direttore, professor Giovanni Liguori, che ci spiega intanto come è andato l'intervento e perché è così raro adesso eseguire questo intervento in Italia. L'intervento che è stato fatto è un intervento che permette di ristabilire la pervietà della via seminale nei pazienti che hanno una azoospermia di tipo ostruttivo, cioè che sono pazienti che non riescono ad avere figli perché hanno la via seminale ostruita. Questa è una percentuale non alta di pazienti, parliamo di circa il 2-3% dei pazienti che hanno infertilità di coppia a causa di un fattore maschile. In questi casi, in cui appunto c'è un'ostruzione deferente, diciamo che è il condotto che porta gli spermatozoi dal testicolo fino al pene, in questi casi è possibile fare un bypass microchirurgico utilizzando un microscopio operatore, che è un intervento in effetti molto complesso che ormai non viene praticamente più eseguito. Questo è l'unico centro pubblico, il nostro, quello dell'azienda sanitaria universitaria ospedaliera Giuliana, la SUGI, in cui questo tipo di interventi viene fatto. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato sottoscritto il protocollo tra la centrale operativa Sores e lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone per l'efficacia della gestione delle emergenze sanitarie all'interno del cantiere. In particolare il protocollo definisce, in caso di emergenza, una maggiore integrazione tra l'equipe sanitaria del cantiere di Monfalcone, che si avvale di un proprio sistema interno di soccorso sanitario operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con ambulanza supporto vitale avanzato e di un proprio presidio infermieristico, e Sores, formalizzando il coinvolgimento del personale di servizio. 12:49, parliamo della pallacanestro Trieste, che si è conquistata la promozione in A1 davanti al pubblico di casa, che ha colorato il Pallarubini di rosso. La squadra di coach Christian ha vinto quindi 83-72 contro Cantù. Sentiamo il racconto di questa festa. La grande festa dei 6.000 tifosi con il capitano De Angelo, il triestino Doc, che alza la coppa che certifica che la Pallacanestro Trieste, dopo un anno di purgatorio, torna in Serie 1. Una gioia per una città che si era ripresa a fatica dalla retrocessione dell'anno scorso e che aveva sofferto una stagione difficile. Per i ragazzi di Christian, che però hanno cambiato marcia nei playoff, trascinati da un altro triestino, Michele Ruzier, cresciuto nel vivaio e che dopo una gara 3 difficile torna a guidare la squadra con le sue letture, i suoi assist, il suo carisma e le triple che spazzano via Cantù. In una partita che di fatto non c'è troppa la differenza di energia, i biancorossi giocano a velocità doppia e mantengono sempre dai 10 ai 15 punti di vantaggio, sorretti da un grandissimo Vildera, 20 punti e 10 su 11 al tiro. Mollano un po' soltanto quando la baldoria è già cominciata, 83-72, Trieste è di nuovo in Serie 1, ci sarà tempo per i piani ambiziosi della proprietà americana al completo in tribuna. Ora è tempo di brindare una promozione a cui nessun tifoso credeva soltanto un mese e mezzo fa. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sentiamo ora le interviste al microfono di Sebastiano Franco al general manager Michael Arcieri e ai protagonisti della serata, i giocatori Francesco Candussi e Giovanni Vildera. La vediamo emozionato con le lacrime agli occhi. Che significato ha questa promozione? È tutto. Catania, volevo tornare in Serie A immediatamente. Loro ci hanno dato tutto per provare a farlo. Tutto il credito ovviamente a Jamie, lo staff e il giocatore, ma senti, non ho le parole in inglese o italiano, ma è bellissima. Candussi, una gran partita, una grande gara 4 vinta sotto canestro per andare in Serie A1. Era quello che avevamo bisogno per questo pubblico fantastico, ma soprattutto per questa squadra, per questa squadra qua, degli uomini veri prima che giocatori. Oggi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto, secondo me è partita incredibile della squadra, adesso festeggiamo per questo gruppo di ragazzi, veramente merita tutto questo ed è una cosa fantastica farlo con i ragazzi con cui sei cresciuto e con cui hai condiviso buona parte della tua vita anche oltre la pallacanestro. Vildera, hai giocato una grandissima gara 4, sei stato determinante sotto canestro, era questa la chiave per vincere questa partita? Avevo fatto una gara 3 di merda. Volevamo tutti vincere. Eravamo, non so neanche cosa dire, erano stanchi, ma volevamo vincere. Siamo stati bravi dal primo all'ultimo, concentrati sul pezzo. Ci hanno aiutato tutti. Siamo contenti che mesi fa non abbia preso la merda tutto l'anno, ma poi quando contava, i giocatori veri come Filloi, come Luzer, hanno fatto vedere che squadra eravamo. Udinese Calcio ha annunciato le nomine di Gökhan Inler nel ruolo di responsabile dell'area tecnica e Gianluca Nanni come direttore tecnico del gruppo. Nanni porterà un consistente bagaglio di competenze grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza nel mondo del calcio italiano internazionale. Ha dimostrato una straordinaria capacità di sviluppare talenti, implementare strategie vincenti. Lavorerà a stretto contatto con il nuovo responsabile dell'area tecnica Gökhan Inler, l'allenatore e tutto il team udinese ne supervisionerà la direzione tecnica. Gökhan Inler ha vestito la maglia bianconera dal 2007 al 2011, diventando un punto di riferimento per la squadra e i tifosi. Nani e Inler saranno presentati nei loro nuovi ruoli martedì 18 giugno. Ed è stato presentato questa mattina nella sede della regione di Pordenone il festival Un fiume di note, Alto Livenza, rassegna che propone concerti itineranti nei luoghi più suggestivi dei comuni del contratto di fiume Alto Livenza e vede la direzione artistica del violoncellista di Spilimbergo, Riccardo Pes. Quest'anno in cartellone dal 23 giugno al 1 novembre figurano 12 appuntamenti in altrettanti comuni, evento d'esordio quello di Brugnera, Villa Varda, in cui sarà protagonista la giovane orchestra metropolitana di Mestre con il concerto intitolato Splash, un tuffo nella musica, per l'esecuzione di fantasie di celebri colonne sonore con omaggio a Ennio Morricone, a grandi classici di film di animazione, oltre alla musica dance anni 70. Chiuderà la kermesse l'evento di Sacile con l'orchestra del governo inglese Whitehall City Orchestra, composta da una cinquantina di membri tra i 21 e i 91 anni, che si esibirà per la prima volta in Italia per la direzione di Claudio Di Meo. E ancora uno spettacolo a Capriva del Friuli, Noi siamo il tempo, interpretato dal Free Voices Show Choir, diretto da Manuela Marussi, con la partecipazione degli attori Enrico Cavallero e Paola Aiello, alle 20.45 nella palestra comunale di Capriva. Questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabelli e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio ancora di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.